La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Facciamo subito una pausa. Non parliamo dell'argomento del giorno. Voglio parlarvi di una cosa che ho visto, anzi sentito ieri in metropolitana mentre tornavo a casa. La gente in metropolitana cosa fa a Milano? Telefona o manda messaggi e ti mette lo smartphone praticamente sotto il naso. Se ti cade l'occhio poi ti guarda male, come per dire, ma che fai, spiri? Beh, me lo metti sotto gli occhi, cosa devo fare? C'era questa ragazza con un'amica che stava telefonando al fidanzato e stavano litigando al telefono perché lui non aveva ancora comperato 5 kg di pasta. Ma compra la pasta, diceva lei. Sì, 5 kg. E vabbè, alla fine io naturalmente ho teso l'orecchio, ho detto cosa se ne faranno i 5 kg di pasta? Chiude il telefono e racconta alla sua collega, amica, quello che era, il perché. Oggi, venerdì, sarebbero partiti per la Croazia e lì non si trova la pasta, secondo la ragazza, e quindi si sarebbero portati questa scorta di pasta di 5 kg per andare in Croazia, che come estero, cantava un tempo Bruno Lauzi, come estero è una truffa, perché chiamalo estero, praticamente superi un confine e sei arrivato. Io ogni giorno vorrò ricordare questa cosa perché faremo un conto alla rovescia, stando via 15 giorni, 5 kg di pasta, cosa saranno, 3 etti al giorno, non si sa. Bene, viaggiate perché apre il cervello. Bene, siamo qui pronti, oggi si parla di ballo. Il sabato sera si passa in balera, è il titolo della puntata. E finalmente vi svelerò una cosa che continuate a chiedere sulla pagina di Facebook della Bella Estate. Ma chi canta? Che sigla è? Che cos'è? Eccola che cos'è, ve la faccio sentire. Well, let me tell you, baby, about a brand new dance now. It's the greatest thing going on today. You don't need to be so great to do this dance now. Come on and give it a chance. Well, you don't need to be so great to do this dance now. Come on and give it a chance. Get together all you teens and make one big line now. Shake your hips, use your hips, get in time. You don't need to be so great to do this dance now. Come on and give it a chance. You don't need to be so great to do this dance now. Come on and give it a, follow me. Left kick, left kick, right kick, right kick. Forward jump, back jump, one, two, three. Left kick, right kick, right kick. Forward jump, back jump, one, two, three. Let me tell you, baby, about a brand new dance now. It's the greatest thing going on today. Contenti, soddisfatti, ve l'ho fatta sentire, non tutta ma quasi. Allora, il pezzo è del 1963, si chiama Dunja Jenka. La Jenka, o Jenka, non abbiamo ancora capito, è un ballo tipico finlandese, norvegese, di quelle parti nordiche. Lui si chiama, anzi si chiamava Jan Rode, perché purtroppo ci ha lasciati nel 2005. Fabrizio Intonti, che è il coautore del programma, l'ha trovato non si sa come, non ricordava più il titolo, non ricordava più niente, abbiamo fatto una ricerca con i versi della canzone e siamo riusciti a trovarlo su un sito finlandese. Ed ecco, finalmente sapete tutto. Questo pezzo è stato il pezzo di maggior successo in Finlandia dal 63 al 65, quindi la produzione non è che sia stata così ampia in quel periodo. Per 3 anni hanno sentito la stessa canzone. Allora, dobbiamo parlare di musica da ballo. D'estate si balla di più, balere, discoteche, dov'è che andate a ballare sulla spiaggia? Cosa fate? Ballate il tango? Che cosa ballate? 800 24 00 24. Anche per dirmi se siete, che so, degli orchestrali, degli orchestranti, dei musicisti, che cosa vi richiedono maggiormente? Ci sono dei pezzi, questo è giusto per entrare in argomento, dei pezzi che diventano simbolo stesso di alcune cose. Per esempio, se pensiamo alla musica classica, ci viene in mente questo. Questo è veramente la Gioconda. Tu dici la Gioconda e pensa alla pittura, e questo pezzo di Beethoven, la quinta, è la musica classica. Se pensiamo allo striptease, ci viene in mente questo. Fatto finta di spogliarsi al suono di questa musica in un villaggio vacanza, di quelli che ci vanno naturalmente, lo so, l'avete fatto tutti, quindi non nascondetevi, se l'avete fatto ditemelo, 800 24 00 24. Se pensiamo invece alla musica rock, che cosa ci viene in mente? Questo. (Susurra) sentivo, quindi ho cercato di farvela sentire di più. Ma veniamo al clou di oggi. Se parliamo di musica da ballo e di discoteche, che cosa ci viene in mente dal 78 in poi? Questo. Voglio proprio sapere chi di voi non ha mai fatto finta di essere John Travolta anche senza giacca bianca, e bastava soltanto alzare il braccio, il dito puntato al cielo e voilà, e tutti ci sentivamo, come dire, dei piccoli Tony Manero sulla pista da ballo. Voi, io per carità, vado mica a fare John Travolta sulla pista da ballo. Voi l'avete fatto? Avete imitato John Travolta? 800 24 00 24, aspetto con ansia le vostre avventure in discoteca o in balera, perché oggi parliamo di balere. Le balere sono qualcosa di meno della discoteca, più spontanee, più, così, più familiari. Avvengono anche delle avventure che poi hanno degli svolti, se posso dire il termine, erotici. Vabbè, no, non si può dire. Ogni estate ha un ballo tipico. Siamo passati dalla Macarena alla Lambada, cos'altro c'è? La famosa danza Cuduro, che sapete che è la mia ossessione, la mia paura totale. C'è stata, tanti anni fa, un ballo che è nato in televisione e poi tutt'oggi sono sicuro l'avete ballato tutti fingendo di ballare. Oggi vi diamo un documento storico eccezionale. Adesso però vogliamo presentarvi un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ha fatto veramente felice Raffaella. L'ha fatta felice soprattutto perché ha la possibilità di insegnarvi qualche cosa. Un nuovo ballo giunto dalle Antille che si intitola Tuca Tuca, che significherebbe mi piaci e mi piaci, e credo che sia un ballo già famosissimo nel mondo, è vero Raffaella? Proprio così, il Tuca Tuca è il ballo del 72 ed è già famosissimo a New York, a Londra, a Parigi, ed io modestamente vorrei presentarvelo qui da Canzonissima in anteprima per l'Italia. Il Tuca Tuca è facilissimo, si balla soprattutto con le braccia più che con i piedi e quindi lo potrete ballare assolutamente tutti, abili e meno abili. Le mosse questa sera ve le faccio prima una alla volta e poi tutte insieme. Non ho nient'altro da aggiungere perché lo vedrete e spero che vi divertirete con me. Musica, prego! Mi piaci, mi piaci. Mi piaci tanto, tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci. Si sentiva nella voce di Corrado un leggero fondo di presa in giro, perché sapeva esattamente quello che stava dicendo. Il Tuca Tuca non è un ballo giamaicano, ma figurati, vi immaginate Bob Marley che balla il Tuca Tuca? Io no. Non era neanche famoso a Londra, a Parigi, New York come spacciava la Carrà, è una cosa costruita, ma ai tempi non si sapeva nulla, credevamo a tutto ciò che guardavamo in televisione, mica c'era internet che andavi a controllare, anche adesso mica andate a controllare, internet lo usate soltanto per fissare gli appuntamenti per gli aperitivi su Facebook, dite la verità, bisogna sempre andare a controllare per vedere se dicono la verità quelli che ci dicono queste cose, il Tuca Tuca è un ballo giamaicano. Poi la Carrà, vabbè, la Carrà, mi ricordo una battuta meravigliosa di Grillo sulla Carrà. La Carrà, sapete, è romagnola. Beh, è andata fino a New York, diceva Grillo, per scrivere un libro sulla piadina romagnola. E in Romagna restiamo comunque, perché adesso sentiremo un brano famosissimo che forse può essere come posso dire? Può essere considerato, ecco, considerato l'inno nazionale della Romagna. Se qualche volta avete ballato e pianto anche al suono di questa musica. La musica fu scritta, famosissima Romagna mia, tanti anni fa da Secondo Casadei. E io al telefono ho Riccarda Casadei, che di Secondo è la figlia. Pronto Riccarda? Pronto dottor Labranca, buongiorno. Ma non sono dottore, perché sennò poi mi chiedono i pareri medici, per carità, sono soltanto Tommaso. Va bene Tommaso, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora Riccarda, quanti anni sono passati da quando Secondo scrisse Romagna mia? Allora, Romagna mia è nata come Casetta mia, poi è stato cambiato all'ultimo momento il titolo. È nata nel 1954 esattamente, ed è la canzone che ancora ci dà le più grandi soddisfazioni, ha raggiunto veramente tutte le parti del mondo e l'abbiamo addirittura sentita in 19 lingue, quindi diciamo che il nostro biglietto da visita rimane. Sì, ma quando la traducono tengono il termine Romagna oppure cambiano? No, molte volte cambiano, qualche volta la lasciano così il termine. Ah, non è che fanno Ucraina mia? No, qualche volta lo fanno, sì, qualche volta sì. Anche le nostre orchestre di liscio, quando vanno a suonare in giro, magari suonando in Sicilia o in Piemonte, cantano Sicilia mia oppure, che ne so, Toscana mia. Lo stesso Papa Wojtyła, quando cantava Romagna mia, sappiamo insomma che è stata sempre una delle sue canzoni preferite, e cantava sempre Polonia mia, Polonia in fiore. Ah, ecco, però c'è da dire una cosa anche, che è un pezzo che non è soltanto legato alla Romagna, all'Iscia, è un pezzo quindi internazionale, cioè quel fondo anche di nostalgia che ha, di un po' un suono un po' triste, forse è quello che conquista. Sì, penso di sì, c'è sempre un po' di nostalgia, però comunque tutti i brani di mio padre vanno sempre a finire in tonalità maggiore, così diciamo una gioia, una finale di gioia, di speranza, comunque un finale positivo, ecco. Ecco, perché ricordiamo, secondo Casadei non ha scritto soltanto Romagna mia, quanti brani ha scritto? Mio padre ne ha incisi ben 1048. È un'infinità praticamente. Di cui la maggior parte è presso la EMI, Voce del Padrone Columbia. E poi ne ha lasciato circa un centinaio che sono da completare, sono tutti così abbozzati che poi faremo col tempo, rivedremo, non so, insomma, piano piano li vedremo tutti. Ecco, ma lei cos'è che fa? Lei lavora praticamente ancora per suo padre, porta avanti questa eredità musicale. Io e la mia famiglia lavoriamo per difendere e diffondere al massimo questa musica con le nostre edizioni musicali, Casadei Sonora, che diciamo che ogni anno spediscono circa 4.000, più 4.000, due volte all'anno fascicoli di musica romagnola e naturalmente anche musica di orchestre, di compositori attuali, che comunque sono sempre comunque brani da ballo, insomma, tutto ciò che è ballabile, assieme naturalmente alle nostre musiche che sono valzer, polche, mazurche del babbo. Ecco, una curiosità, ma d'inverno cosa succede in Romagna? Ballate lo stesso? Romagna si balla sempre, diciamo che il ballo è la vita del romagnolo, soprattutto nei tempi passati, adesso forse un po' di meno perché il romagnolo ha più distrazioni, c'è la televisione, c'è il cinema. Sì, però ma non, diciamo, è la stessa, non è la stessa cosa, dai Riccarda. Sì, lo so, non è la stessa cosa. Diciamo che adesso la gente è un po' più distratta, ha meno voglia di ballare, però comunque è sempre il ballo una parte importante della vita del romagnolo, insomma, perché comunque ballare vuol dire divertimento, vuol dire conoscere nuove amicizie, vuol dire innamorarsi, vuol dire stringere il proprio partner o la propria partner, quindi vuol dire tutto, è bello. Oh, ecco, abbiamo chiuso con questo rimando sensuale. Riccarda, grazie, buon lavoro e grazie anche per tutto quello Posso che ci ha dato. Secondo domanda? A me? Lei balla? Diciamo poco, non Beh, sono capace. Allora adesso invito lei e tutti quelli che ti ascoltano a ballare, perché ballare è bello, veramente bello. Sì, allora le confesserò una cosa, ho bisogno di una partner che sia al mio livello, che non mi venga troppo alta di cavallo, come diceva Fantozzi, per cui metterò un annuncio. Grazie Riccarda. Grazie a lei e grazie a tutti gli amici, buongiorno. Buongiorno, salve. Arrivederci. Bottiglia di sanguada, orchestra de ciuche, e danza indemoniata, là nella balena, gira la noce, la gira, la pala, la maia, iura e noce, là nella balena, gira la noce, la gira, la pala, la maia, iura e noce, la fisarmonica, bufa. Ecco, dalla Romagna siamo balzati sul lago di Como con Davide van der Stroff, difficile, io con queste pronunce tedesche, scusate, poi quando vedo un ST leggo Stroff, invece è van der Stroff, perché neanche, cioè allora c'è, cioè, ma allora regista dimmi come si pronuncia? Van der Stroff, perché abbiamo il regista che è di Como, penso, è stato, no, non è di Como ma finge di esserlo. Allora, a volte quando si parla di Van der Stroff dicono ma non si capisce, e sono gli stessi che portano 5 kg di pasta in Croazia e poi ascoltano, che so, i rapper americani, e quelli li capiscono perfettamente. C'è Roberto da Roma che mi chiama, bene, qualcuno che balla forse, pronto Tommaso, Roberto? Sì. Tommaso, buonasera. Grazie, a lei, ciao. E ai nostri ascoltatori. A tutti, sì. Senti, io ho 60 anni, sì? E sono passato dai balli standard negli ultimi 5 anni ai balli popolari. Balli popolari, quindi nell'inciso tra quel pezzo che tu stai mandando in onda, che era in sottofondo, io lo conoscevo prima che arrivasse a Sanremo, perché appassionato di musica popolare, l'ho sentito in una serata che lui ha fatto in provincia di Frosinone, pensa. Ecco, vedi, questa è la dimostrazione di come in realtà Van der Vroos sia universale, comprensibile ovunque. Sta succedendo una cosa che volevo porre alla tua attenzione e all'attenzione dei nostri ascoltatori. C'è un fenomeno che è prettamente di musica popolare, che si chiama pizzica salentina, quindi viene dall'estremità della nostra penisola, e sta salendo nel corso di questi anni lentamente, arrivando fino sicuramente a Rimini. Se tu avrai occasione di capitare in qualsiasi festa di piazza, sì, troverai che anche un complesso che fa musica, anche tipo la Casa Dei, avrà il suo pezzetto di pizzica salentina, quindi musica popolare. Sì, lo so, infatti io poi ne ho anche parlato qui, perché soprattutto a Milano la cosa sta raggiungendo livelli di plasticità, ossia sta diventando un po' plasticona, perché sì, tutti fingono di apprezzare la pizzica. Tommaso, dunque, la pizzica è basata su cosiddette terzine a base di tamburello, ed è nient'altro una musica basata quindi sui bassi, sul tamburello, che fa saltare la gente. È come se la gente partecipasse a un rave senza sapere, quindi saltano, zompano, diciamo, a Roma, senza sapere esattamente come si balla. Questo però sta contribuendo a riscoprire le radici anche di altre parti dell'Italia del Sud, tipo Napoli, la tamburiata, in cui noi abbiamo sempre pensato, no, uno va a Napoli, si balla la tamburiata. Non è vero, sta cosa era sparita. La stanno ripescando adesso, come stanno ripescando per esempio la tarantella calabrese, che sono dei balli popolari particolari, alcuni difficili, alcuni un po' meno. Ma sono dei recuperi sinceri? Lo sono, perché questa cosa coinvolge soprattutto i giovani, non coinvolge le persone come me. Io sono un appassionato di musica e di ballo, è un'altra cosa. No, perché ti dico una cosa, sì, quando tu guardi in televisione La Prova del Cuoco, no? Questo programma in cui cucinano, eccetera, arriva una qualunque pugliese di Bari piuttosto che di Molfetta, gli mettono la pizzica, non c'entra niente, la pizzica è salentina. La pizzica è un fenomeno esclusivamente salentino, con una tradizione, perfetto, è un ballo di corteggiamento. Ma tu immagina, e te lo dico così brevemente, se anticamente, dopo una giornata di lavoro agreste, cioè queste donne avevano secondo te l'opportunità di ballare come le tarantolate? Assolutamente. È stata travisata questa sorta di tradizione in cui si confonde la tarantolata classica, che si agitava sulla scalinata del Sagrato di Calatina, sì, col ballo della pizzica, che è un ballo di corteggiamento molto dolce, in cui la donna è una donna austera che si fa corteggiare, il pavone è soltanto l'uomo. Certo, Roberto, ma tu vedi, quindi, tu sei una persona preparata, purtroppo in giro ci sono tantissime persone che sono molto più cialtrone, quindi mescolano tutto. Comunque grazie, perché veramente hai dato un tono un po' più colto a questo momento, in cui io ovviamente invece scendo molto in basso, perché appunto sbaglio a pronunciare i nomi dei cantanti. Era Davide Van des Vroos senza la Sfros, il pezzo si chiamava Balera, per questo l'abbiamo scelto. Ma quando voi siete in balera, come vi comportate? Se dovete invitare una dama a ballare, come vi comportate? Per fortuna noi abbiamo la nostra esperta di bon ton, Barbara Ronchi della Rocca. Se in un locale, che può essere anche un salone di un albergo, ma anche, pensiamo, una sala da ballo, una discoteca su una nave, no? Una delle grandi novità di questi anni sono le navi da crociera, che ormai sono considerate una vacanza di massa molto ambita. Ecco, sulle navi io ho notato che resiste ancora un poco di questo garbo, per cui è l'uomo che invita la donna, la quale naturalmente è libera di dire di sì, di no, eccetera, mentre in altre situazioni più giovanilistiche, le discoteche a terra, eccetera, questo viene sentito come un rapporto un po' vecchio stile, quindi un po' sbertucciato, diciamo. Non fatevi sbertucciare quando andate in balera, mi raccomando, perché poi tornate a casa e piangete tutta la notte. Claudio, pronto? Sì, pronto? Claudio da Vicenza. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Tu cosa balli? Complimenti per la sua trasmissione, perché noi ci siamo sentiti, penso, un 15 giorni fa, quando le ho raccontato la mia avventura del concerto degli America. Dove è vero. Beh, Claudio, quindi sei stato al concerto degli America e hai ballato, cosa hai fatto? Sì, beh, ma il concerto degli America abbiamo ballato, però io prima posso darti del tu. Ma certo, abbiamo la stessa età. Beh, questo non si sa. Me lo auguro. ho sentito che intanto si dice Davide Van der Sfross. Van der Sfross. Van der Sfross. Sfross. Davide Van der Sfross. Grazie. Fa una, secondo me fa veramente una bella musica con una nella sua lingua, perché la sua è una lingua. Sì. E se la trovate, provate a fare ascoltare La Curiera di Davide Van der Sfross, che è stupefacente. Provvederemo, è molto bella. Provvederemo. È molto bella, però io prima ho sentito che hai accennato alla musica reggae. Ecco, io volevo dire una cosa. In Veneto, e soprattutto i gruppi musicali veneti, uno fra tutti sono i Pittura Fresca, ma poi ce ne sono tantissimi. Sì, fanno reggae. Nella lingua veneta, ma non è che fanno reggae, è perché la lingua veneta si presta al reggae. Cioè, se tu provi a cantare la lingua veneta, a provare a fare un, non so, qualsiasi tipo di musica da ballare, l'unica che riesce a far, cioè, a combaciare è il reggae. Ah, l'unica allora. Sì, sì, perché ha quella cadenza veramente che... Allora, siccome la lingua veneta si avvicina tanto all'italiano, però taglia le parole, no? E riesce sia a fare la rima e si appresta tantissimo alla musica reggae. Ecco, io ho telefonato solo per questo, per dirti che siccome avevo sentito che hai accennato alla musica reggae e la musica veneta... Cioè, le canzoni venete si prestano moltissimo alla musica reggae. Oh, abbiamo qui, grazie, guarda, grazie Claudio. Io questo ti punto... ringrazio e buona giornata. Ma anche tanto. a te, ciao. Bene, d'ora in poi, quindi, quando sentiremo Bob Marley, penseremo Bob Marley, Bulegin si chiameranno, avrà quest'altro nome, un nome veneto, avrà origini venete Bob Marley, non lo sappiamo. C'è stato un brano musicale che qualche anno fa ci ha veramente disturbato, almeno a me, personalmente, parecchio. Questo qua. Alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Ay, dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama. La Macarena, che deve il suo successo al fatto che lo ballava Clinton, la ballava Clinton e altri personaggi della politica americana, e quindi lo ballarono anche in Italia. Per fortuna l'avevamo dimenticata, ma adesso ve l'ho fatta tornare in mente, per cui tutto il giorno vi tornerà in mente questo pezzo. La bella estate. Come dice la nostra sigla, dice la stessa cosa praticamente, due passi di destra, due passi indietro, tre passi avanti, perché alla fine Finlandia, Italia o Romania, i balli sono sempre gli stessi. A me il ballo del pinguino fa grattare, veramente viene un'allergia addosso quando lo sento. Voi l'avete mai ballato? 800 24 00 24, avanti, confessate, avete mai ballato il ballo del pinguino? Tutti insieme? Tutti avanti, tutti indietro? Per carità, io no, non l'ho mai fatto, però mi è venuta in mente la mia estate del 1986. Can Dance, d'altronde appunto c'è sempre danza, ballo di mezzo. Che meravigliosa estate, nel 1986 l'ho passata ascoltando questo disco. C'era una copertina favolosa, c'era una tomba in copertina, bella tomba, del Perlascesi, intendiamoci. Ah, mentre voi cosa facevate nell'86? Ballavate la buzumba? Non lo so, però a me piacerebbe ballare, ve l'ho detto anche prima a Riccardo Casadei, mi piacerebbe ballare, solo che ho problemi nel trovare una partner, non sono molto alto, voi in radio non lo vedete, non essendo molto alto non posso ballare con una partner troppo alta, il mio sogno però sarebbe ballare il tango. E nel mondo avrà un lugar para cada despertar. Un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, ah, saper ballare il tango, ma proprio quello tutto figurato, con le gambe che si alzano, si incrociano, non quello da balera, Il tango tango, quello serio, quello argentino, quello che poi abbiamo visto anche nei video dei Gotham Project, che hanno preso il tango, hanno preso la musica elettronica e hanno creato questa fusione. Allo stesso modo in cui hanno preso il liscio, la musica elettronica, e hanno creato la house music. Questa almeno è la mia opinione. Però è un'opinione a cui voglio trovare una conferma e voglio chiederlo a un personaggio che ho al telefono. Pronto, Johnson Righiera? Pronto, Tommy, come stai? Bene, tu? Bene, sono qua immobile sulla spiaggia, in un punto dove il telefono prende, spero bene, perché ci sono problemi di roaming. Ah, beh, è già qualcosa, perché pensa, io sono qui immobile in via Monterosa, Milano, per cui c'è anche un po' di differenza. Senti, senti, ma stavo appunto facendo questa riflessione, che la house music in realtà non è che del liscio, così, accelerato con una cassa molto potente, non trovi? Beh, dipende dall'house, da quale house, perché sai, house è un termine tutto sommato un po' generico. Io, per esempio, la house dei primi 90, la underground house, che è la mia preferita, la deep house, insomma, che è la mia preferita, non la vedo esattamente appartenente a questa definizione. Ma quella è un po' happy, sai, sì. Sicuramente sì. Ecco, allora, Johnson Righiera, perché l'ho chiamato? Perché Johnson è un DJ. Sì. Anche tra le tante cose, musicista, cantante e anche un DJ, quindi può dirci qualcosa sulla musica da ballo che non sia liscio, perché abbiamo già parlato del liscio con Riccardo Casadei. Tu devi parlarmi invece dell'altra musica da ballo. Ma quest'anno, quest'estate, c'è un nuovo stile, c'è un nuovo genere, c'è qualcosa di nuovo? Ma guarda, io frequento molto meno i locali rispetto a una volta, li frequento principalmente quando ci lavoro, sia col socio come Righiera, che quando appunto mi trovo invece a fare dei DJ set, soprattutto sono situazioni in cui veniamo a trovarci praticamente in situazioni di anni 80, e quindi e anche la musica che propongo io faccio un set, io dico sempre che la musica che metto io è 70, 80, 90, 100 ormai, ma tutto. E, in realtà, beh, quando vado in giro negli altri locali, ma io sinceramente non mi sembra che sia un grandissimo momento per la musica, di nuovo un po' un'insalatona generale come poco prima che dell'avvento dell'house, insomma, dell'inizio dell'house, quindi sembra un po' che sia una fase di passaggio, di attesa per andare da qualche parte che ancora non si sa bene dove sia. Sì, però non si sa dove si va, perché comunque quando vedi le pubblicità dei locali, come dicevi tu, c'è sempre scritto musica 60, 70, 80, cioè è tutto questo riproporre il solito pastone, ma non c'è mai nulla di nuovo. E quando, sai, quando ci si volta indietro è perché evidentemente intorno non c'è niente di nuovo, quei tipici revival nascono sempre quando ci sono dei momenti un pochino così. Ma sono vent'anni che andiamo avanti con questi revival. Diciamo la verità, cioè i tempi in cui tu eri agli inizi dei Righiera è stato un momento bellissimo, perché comunque stava nascendo, sono nate un sacco di cose, l'elettronica, ma quante cose sono nate in quel periodo, in quegli anni 80? Ma guarda, con me sfondi una porta aperta, perché mi sono reso conto forse più dopo che non al momento. In realtà io ritengo è stato l'unico momento in cui l'Italia, al di là della consueta tradizione melodica di stampo più classico, che è stata poi aggiornata negli anni dai vari Eros Ramazzotti, Laura Pausini, così, ma che appartiene sempre in qualche modo a una tradizione melodica pur se modernizzata, e invece in quegli anni lì è uscito fuori un sound, dall'Italia proprio parlo, un sound nuovo, un sound elettronico, pur sempre con una componente melodica che in Italia è fondamentale nella musica, ma un sound che è stato esportato in tutto il mondo e che è diventato un genere chiamato poi Italo Disco anche in altri modi, ed è una cosa proprio molto molto italiana, per cui sono anni in cui veramente sono successe delle cose importanti. Come al solito noi forse in Italia ce ne accorgiamo di meno che negli altri paesi, però sì, noi parliamo sempre male poi di noi stessi, quindi figurati. Sì, gli anni 80. Senti, ma voi adesso dimmi una cosa state facendo con i Subsonica? Abbiamo fatto questa canzone, loro ci hanno proposto questo brano che ci è piaciuto immediatamente moltissimo e continua a piacerci molto, oltretutto era perfetto, era assolutamente nelle nostre corde, per cui l'abbiamo registrato insieme, adesso siamo stati ospiti di un loro concerto a Milano all'Arena Civica, faremo ancora il 14 agosto a Gallipoli e poi mi sembra il 17 settembre al Castello di Legnano, siamo ospiti di loro concerti e abbiamo fatto questa cosa che è molto, cioè in realtà era una roba che era nell'aria da molti anni, che volevamo fare da molti anni, perché con Max Casacci soprattutto ci conosciamo da tempo immemore, dagli anni '80, quindi loro poi sono usciti dopo di noi, in qualche modo hanno sempre citato noi come uno dei punti di riferimento iniziali, per cui è diciamo quasi fisiologico. Sì. Era destino, era un incontro segnato dal destino. Johnson, grazie, senti, buone vacanze, perché sento che sei in spiaggia, ce l'hai detto anche tu, sento i gabbiani, i bambini, cioè le onde. Sì, no, gabbiani, no, senti forse la risacca, che sono praticamente proprio sulla riva. Sai cos'è? Che io non vado mai al mare, quindi io dico i gabbiani a caso e magari non so se potrebbero essere anche cornacchie. Okay. Buone vacanze, Johnson. Ciao Tommaso, stai bene, grazie. Ciao. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. E magari l'estate sta finendo, non sta finendo, abbiamo ancora tutto agosto davanti e poi anche mezzo settembre. Perché, dice disperata la mia cara redattrice Claudia, lei deve ancora partire per le vacanze. E sai, questione di carattere, ti ho detto che io ascoltavo i dischi con le foto fatte nel cimitero di Parigi, il Père Lachaise, quando ero giovane. Tuttora lo faccio, tuttora. Allora, c'è un ascoltatore, Antonio da Como, pronto? Sì, buongiorno, Antonio? Buon pomeriggio. Ciao. Senta, io volevo intervenire un attimino sul discorso della, che avete fatto prima sulla pizzica, ecco, che il signore di prima ha detto che praticamente è arrivata fino a Rimini, ecco, è un po' riduttivo, diciamo, perché vabbè, io abito a Como, ma sono salentino puro sangue, quindi sono un po' un cultore della pizzica, e se voi un po' guardate su internet vedete che praticamente la musica popolare, diciamo, italiana, dialettale, che è più famosa nel mondo a questo punto, perché praticamente è conosciuta anche a Tokyo, è conosciuta anche in America, quindi cioè molto riduttivo dire arrivata fino a Rimini, perché addirittura a Milano stanno aprendo scuole di ballo dove insegnano anche addirittura la pizzica, quindi come poi lei ha corretto, diciamo, sì, perché io fra l'altro, Antonio, sono anni ormai, non è da questo mese o il mese scorso, sono anni che sono vessato da queste fanatiche della pizzica a intermittenza, cioè come ne ho parlato anche qualche puntata fa, per 3 mesi d'estate loro impazziscono per la pizzica, poi basta, scompare, pensano ad altro, poi d'estate via di nuovo il gonnellone, il tamburello e pizzica. Quindi quando questi fenomeni che hanno un fondo di serietà assumono questo atteggiamento da moda, come se fosse un paio di scarpe che questo mese va e il mese prossimo non va più, mi dà fastidio. Ecco perché poi mi inalbero contro l'uso della pizzica. No, ma oltretutto è stato poi, non è stato neanche tanto pubblicizzato come tante musiche, diciamo, tipo, diciamo, le musiche emiliane o che cosa, qui è stato un tantam come il tamburello, no? Che fa tantam, e è stato, diciamo, un tantam che è andato diffondendosi, diciamo, molto velocemente in questi anni, e poi si è diffuso anche, ripeto, in altre parti del mondo, ecco, sono dei posti a Tokyo dove ballano la pizzica addirittura, quindi beh, diciamo, d'altronde devono anche ricambiare con tutto quello che stiamo spendendo noi in sushi, cioè almeno una cosa, grazie. È chiaro. Antonio, comunque, grazie. Una musica comunque molto leggera, chiaramente lei dice d'estate. Pronto. Una musica molto leggera, molto che rispetta il Salento, il vento, il mare, quindi c'è queste gonne che svolazzano, questi scialle così, no? Quindi è per quello che piace molto. Ecco, certo, c'è anche tutta una serie di immagini. Grazie Antonio, ci sentiamo sempre peggio. Il vento, il mare, però le copertine con le tombe sopra sono le cose che io preferisco. Sì, vale! Numero 10, è ancora giorno, Adriano Pappalardo. Ma io vorrei accarezzarti, dimenticare, perdonarti, e lo farò anche se qualcuno grida no. È ancora giorno, amore mio. Numero 9, siamo gente deborgata, Vianella. Numero 8, Without You, Nelson. Numero 7, I giardini di marzo, Lucio Battisti. Numero 6, Piccolo uomo, Mia Martini. Oggi tu ti liberi di me, dimmi che sono tanto fragile e senza te mi perderò, piccolo uomo, no. Numero 5, Un albero di 30 piani, Adriano Celentano. Numero 4, Io vagabondo, Nomadi. Numero 3, Noi due nel mondo e nell'anima, Pooh. Numero 2, Viaggio di un poeta, Dick Dick. Numero 1, Quanto è bella lei, Gianni Nazzaro. Ti prego, non mi dire che lei non è per me, non darmi un dispiacere. Mauro, basta. Questo è uno dei pezzi più brutti mai scritti da Cicerone in poi, penso. Ed era il numero uno nel 1972, Gianni Nazzaro. Spero avrà capitalizzato i guadagni del periodo. 72, perché 72? Perché nel 72, con Ciao Mare, ci fu la rinascita del liscio. Tutti conobbero il liscio, come oggi tutti stanno conoscendo la pizzica, che ci hanno ricordato si balla anche a Tokyo, tra un sushimaki e l'altro. Allora, c'è Andrea. Pronto, Andrea? Buongiorno a voi. Salve, Andrea. Pronto? Siamo dal Trentino. Oh, che bello. Volevo segnalare della musica popolare trentina. Sì. Di un cantautore che oggi purtroppo non c'è più, che era un medico ma faceva anche il cantautore, Carlo Pizz. Carlo? Pizz. Palermo con la Z. Ah. Il sito è www.carlopizz.it. Va bene, allora andremo subito a sentire qualcosa su internet. Noi abbiamo finito, ci sentiamo lunedì. Il tema sarà la più bella vacanza della mia vita. Ciao Mauro, ciao Claudia, ci sentiamo lunedì.